Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il rumore del denaro è una melodia meravigliosa. Senti dolore quando lo muovi per spenderlo. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. No, stavo cercando di capire l'accompagnamento musicale alla prima notizia di oggi. Allora qui, cara Deborah, buongiorno, benvenuta a Due di Denari. Benvenuto anche a te. Devo dirti che è stata scelta dall'ottimo Marco Lombardo, che segue anche percorsi un po' musicali suoi, questo Grandma's Hand. Ha capitalizzato il lockdown facendo anche dei corsi di aggiornamento sulla soundtrack, sulla colonna sonora che accompagna le nostre scelte di temi. Perché doveva circostanziare due aspetti. L'uno, l'aspetto che la notizia viene dal Regno Unito, certo. E quindi dovevamo utilizzare la lingua anglosassone e l'inglese. E poi il fatto che c'è di mezzo una nonna, quindi Grandma's Hand, la nonna, la mano della nonna. Ecco, la mano della nonna che non fa torte, ma invece si occupa di ristrutturazioni, perché devi sapere che all'interno della famiglia reale inglese hanno fatto una sorta di 110% per conto loro, cioè hanno ristrutturato un posto e poi però quelli che hanno usufruito della ristrutturazione, siccome se ne vanno, hanno risarcito, per così dire, il costo della ristrutturazione, e quindi la corona inglese di fatto ha avuto una sorta di 110%, tutto fatto in casa però. Bravo, avrete certamente capito che stiamo parlando ancora una volta di un'altra puntata della saga del principe Harry con sua moglie Meghan Markle, che hanno così chiuso i conti con il bilancio della famiglia reale, restituendo come promesso 2 milioni e 400 mila sterline versate da un fondo di corte alimentato da denaro dei contribuenti britannici per la ristrutturazione della residenza di Frogmore Cottage, che era stata donata a loro a suo tempo dalla regina d'Inghilterra, da Elisabetta II, e poi però, come sapete, hanno consumato questo clamoroso divorzio dalla famiglia reale, se ne sono andati in Canada e quindi è stato deciso che per chiudere i rapporti in maniera serena, dovessero restituire questa cifra. Gli è anche andata bene, perché in questi giorni la sterlina ha perso parecchi colpi, lo abbiamo notato anche raccontando le giornate di borsa, perché Boris Johnson rimette di nuovo in discussione Brexit e chissà che non abbiano risparmiato qualcosina da questa restituzione. Vede che anche loro avranno così consultato il sito www.quelloche.gov.it, che ci mancherebbe altro. Sito, no, io adesso non voglio scherzare, perché questa è una cosa molto seria, è il sito del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, ci sono un sacco di indicazioni utili, non solo le iniziative che vengono avviate e che costelleranno tutto il mese di ottobre, il prossimo mese che sarà come ormai da anni il mese dell'educazione finanziaria, ma poi lì ci sono anche delle indicazioni preziose appunto per conoscere gli strumenti finanziari, capire ad esempio come muoversi nel caso delle valute, e può darsi che il principe abbia passato un po' di tempo sul sito così facendo tesoro delle indicazioni che ci sono contenute. Magari hanno telefonato direttamente dal Canada a Washington alla professoressa Anna Maria Lusardi, che è il direttore di questo comitato, ma tra l'altro vorrei anche anticipare ai nostri ascoltatori le motivazioni per cui hai ricordato dell'esistenza di questo portale con tutte queste informazioni, Mauro, perché oggi è una giornata importante per noi. Riveliamolo, Deborah, perché noi partiamo oggi con ripartiamo con una cosa che già abbiamo avviato lo scorso anno. Nei mesi di settembre, ottobre, i martedì sono stati dedicati all'educazione finanziaria, ai temi dell'educazione finanziaria, e quindi anche quest'anno ci fa piacere riproporlo, sempre in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e in particolare con il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria. E quindi oggi avviamo quello che abbiamo chiamato quest'anno l'alfabeto del risparmio, e siccome l'alfabeto comincia con la lettera A, cominciamo con la lettera di Anna Maria, che è appunto Anna Maria Lusardi, che dirige il Comitato Nazionale da Washington, perché lei insegna a Washington. Benissimo, se avete delle domande sull'attività di questo comitato, su come si svolgerà e concretizzerà tutto il panorama di iniziative del mese dell'educazione finanziaria, potete già iniziare a prenotare le vostre domande, i vostri interventi all'800 24 0024, scriverci al 349 238 6666 oppure a inviare i vostri messaggi vocali su WhatsApp, che sappiamo è la grande modalità che vi piace, modalità che potete utilizzare anche per commentare tutti i temi che sono inseriti oggi nel nostro giornale radio del risparmio. Ta-na-na-na, amore, i soldi. Ta-na-na-na-na-na. Go to a cash machine to get a ticket home. Deborah, ma dobbiamo continuare a parlare del contante. Ma stai scherzando? Ma certo, ne parleremo da qui minimo fino a tutto il 2022, ne sono certa. Perché sono preoccupato perché quando pronunciamo questa parola, contante, subito si scaldano gli animi e anche un po' le linee telefoniche. Allora, Questa mi piace, perché io sono certa che li prenderò questi 300 euro. Perché spenderai almeno 3.000 euro. Diciamo che in un anno tra bancomat e carta di credito, diciamo, chi ne fa un uso anche modesto, secondo me ci arriva a questa cifra. Ma io, se le ragazze di casa mia mi aiutano, anch'io con la mia carta di credito posso fare delle ottime performance, verrebbe da dire. Vedo che anche Gianmarco Ferronato dall'altra parte annuisce, anche lui deve essere uno di quelli che ti fuma la carta di credito. Bene. Allora, di cosa stiamo parlando? Di questo sistema Piano Cashback, è una iniziativa che il governo vuole portare avanti e farla partire da dicembre. È un meccanismo che dovrebbe avere due finalità: incentivare i consumi, abbiamo sentito adesso i dati sui consumi che rallentano, e dall'altra parte anche incentivare il ricorso a pagamenti tracciabili. Allora, il sistema sostanzialmente prevederebbe, dobbiamo usare il condizionale perché è stato individuato nelle sue linee generali, ma ancora deve partire, deve essere messo a punto, prevederebbe che se si sostengono spese attraverso carte di credito o pagamenti elettronici da 3.000 euro complessivi, questo fa scattare un credito almeno 3.000 euro, quindi bisogna arrivare a spendere non tutti in un acquisto naturalmente, ma complessivamente almeno 3.000 euro, questo fa scattare un credito a favore del consumatore almeno del 10%, di cui appunto i 300 euro che Deborah punta a prendere già esatto. Solo con le prime compere esatto. Di Natale. Come ci torneranno indietro questi 300 euro? Mi sembra che ancora la forma non sia stata stabilita, se cash o in un'altra modalità, ma sarà un importo magari riaccreditato sulle medesime carte. O probabilmente qualche cosa che passerà dall'Agenzia delle Entrate e nella dichiarazione dei redditi. Quindi proprio una sorta di credito d'imposta. Quindi. Vediamo che cosa ci riserverà il futuro. Ecco. E intanto vediamo anche come va a finire la vicenda. La vicenda di Giuseppe, vi ricorderete, simpaticissimo ascoltatore che ci ha chiamato ieri raccontandoci in diretta come fosse alle prese con questo problema. Ha una banconota da 500 euro e non ha nessuna possibilità di cambiarla in tagli più piccoli perché le banche si rifiutano. Sapete che da qualche tempo la Banca Centrale Europea non stampa più, per questioni di antiriciclaggio, questo taglio, e di conseguenza chi ce l'ha in mano non ha la possibilità di cambiarlo. E allora Giuseppe lo abbiamo reinterpellato questa mattina e ci ha raccontato che aveva l'ennesimo appuntamento in banca oggi alle 12, perché anche ieri l'appuntamento con la banca è caduto nel vuoto, è andato a vuoto, non è riuscito a cambiare, e chissà se stamattina ritorna con la prospettiva di raccontare che ha detto tutto a Radio 24 e quindi un po' con questo deterrente forse la banca cambia. Ma noi abbiamo un appuntamento telefonico con lui domani mattina e ci racconterà com'è finita la vicenda. Insomma, c'è un signore che vuole cambiare o comunque spendere i 500 euro e non ci riesce. Io immagino che invece ci siano diversi italiani. Un conto è cambiarlo, ma neanche spenderli. Cioè, se lui va a fare una spesa che magari ha di un importo di 400 euro, si presenta con questa banconota l'esercente e se l'è vista rifiutata. Se la si rifiuta. Comunque Donatella, guarda che ci tira gli orecchi, perché noi abbiamo detto ieri, vabbè, ma al massimo la tenga, perché visto che non le fanno più, anno che diventerà, ne sai, magari avrà un valore numismatico. Invece Donatella ci dice, no, perché guardate che gli acquirenti di numismatica mi hanno sempre detto che quando la banconota è rovinata, e quella di Giuseppe appunto lo sarebbe, e allora quando è rovinata non raggiungerà mai il valore di una che è uguale e in perfetto stato. E allora a questo punto vuol dire che questa banconota, insomma, Giuseppe deve proprio riuscire a spenderla. quasi quasi non so, sto pensando se farmi avanti. Adesso mi consulto un attimo con un esperto di numismatica. Andiamo a cena da uno chef stellato che vedrai che vanno via in un battibaleno. Allora, senti, tra un po' abbiamo anche un piccolo approfondimento con un ospite nel nostro giornale radio del risparmio, però volevo tornare anche su questa notizia segnalata ieri dal Codacons, una grande organizzazione dei consumatori. Vi ricorderete che qualche giorno fa ci siamo occupati dei rimborsi per tutte quelle persone che hanno sottoscritto abbonamenti per il trasporto con mezzi pubblici e che non hanno naturalmente utilizzato né i mezzi pubblici né qualunque altro mezzo di trasporto nei mesi di lockdown, e c'erano molte iniziative sul territorio di varie aziende di trasporto che si erano impegnate a restituire o comunque ricontrattare, se possiamo dire così, appunto gli abbonamenti, allungandoli di un mese o due mesi. Avevamo avuto nostro ospite Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, che effettivamente ci aveva dato indicazioni di molte iniziative spontanee da parte delle stesse aziende ATM, in particolare appunto con la grande azienda del trasporto pubblico di Milano. Il Codacons invece ha scoperto che praticamente risulterebbe impossibile chiedere il rimborso per i detentori di abbonamento. A causa di un errore nel sito dell'azienda, gli utenti non riescono ad accedere ai loro account e a richiedere il rimborso a pochi giorni praticamente anche dalla scadenza dell'abbonamento. Ho capito male, Mauro? Bisogna tornare sul tema? No, è proprio così, perché appunto la società AC Milan ha informato che gli abbonati potranno chiedere rimborso ai biglietti di alcune partite degli abbonamenti stagionali annullati a causa del Covid. Non parlavamo di trasporti, scusami. Essendoci questo errore nel sito, gli utenti non possono accedere ai loro account. E quindi insomma il Milan non rimborsa. Questa è un po' in estrema sintesi la notizia, che si lega appunto, come ricordavi tu, anche alle difficoltà che stanno avendo molti utenti per i trasporti pubblici quando hanno degli abbonamenti e cercano o di farseli rimborsare per la parte non utilizzata quando c'è stato, ricorderete, il lockdown, e quindi due mesi abbondanti di blocco, di impossibilità di utilizzo, o dall'altra parte cercano di spostare in avanti, di avere una sorta di recupero. Ecco, ci aveva detto Truzzi proprio nel corso della trasmissione: guardate che alcune aziende, molte aziende del trasporto pubblico si sono adeguate, ma altre invece ancora non si sono adeguate. E il Milan non fa trasporto pubblico, fornisce altri tipi di servizi, ma invece anche per... Sì, ho fatto tutto un preambolo un po' Milan vago della, effettivamente della si sta creando una situazione analoga a quella che abbiamo raccontato per il trasporto pubblico. D'altronde sono soldi che tante aziende avevano già incassato, e quindi restituire il tutto, insomma, per queste situazioni immaginiamo che sia difficile, anche perché poi magari molte aziende devono continuare a pagare gli stipendi, insomma non è facile anche essere completamente tutelati. Poi magari c'è il contratto di Ibrahimovic, insomma sono problemi. Sono problemi nel calcio. Problemi. Vabbè, senti, a proposito di problemi, ne vedo in vista parecchi per chi parcheggerà in zone dove non è consentito, perché adesso non c'è più nessuna pietà. No, perché mentre si sta discutendo la conversione in legge del decreto cosiddetto semplificazioni, si è fatta una mini riforma proprio in questa conversione del codice della strada, e allora arriveranno non solo gli autovelox sulle strade urbane, quindi non solo per le strade di scorrimento veloce, ma possono metterli un po' dovunque, ma anche la possibilità per in generale i dipendenti comunali di elevare contravvenzioni. Quindi la multa, insomma, potrà arrivare, qualche giornale oggi la sintetizza così, la multa potrà arrivare anche dal netturbino, per esempio. Quindi magari è in giro per fare il suo lavoro, trova una macchina in doppia fila, ecco che potrà subito fare la contestazione e la multa. Tempi duri per la sosta selvaggia, soprattutto, perché quello è abitualmente il punto dove si va a intervenire. Allora, senti, adesso vorrei presentarti un ospite con il quale, commentando una notizia, arriveremo pian piano anche alla nostra nuova rubrica di questa mattina con il Comitato per l'Educazione Finanziaria, perché in qualche maniera la vicenda che è capitata a questa pensionata di Bari ci porta anche ai grandi temi del risparmio. La regola principale è quella di diversificare, purtroppo questa signora non lo ha fatto e quindi è rimasta vittima di una situazione molto sgradevole, che è stata poi recentemente risolta da un avvocato, però insomma ci dà anche modo di ritornare a ribadire i concetti di base dell'investimento. Allora, intanto ringrazio e saluto per essere tornato con noi l'avvocato Massimo Melpignano, responsabile nazionale Banca e Finanza di Consumer Italia. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Grazie avvocato Melpignano, Consumer, l'associazione dei consumatori con la K. Allora, qual è la notizia? Ve l'abbiamo data qualche giorno fa, ci ritorniamo oggi perché l'avvocato Melpignano ci ribadisce un po' la portata e anche le ricadute di questa pronuncia che lui è riuscito ad ottenere da parte dell'arbitro per le controversie finanziarie della Consob, che ha condannato Banca Intesa San Paolo a risarcire 100.000 euro circa ad una pensionata della provincia di Bari che aveva acquistato azioni di Veneto Banca attraverso Banca Apulia, che ora è incorporata in Intesa San Paolo. Quindi nella sostanza Intesa San Paolo deve rispondere di un fatto molto indietro nel tempo del quale non ha nessuna responsabilità, ma la responsabilità poi se l'è trascinata dietro acquistando come ricorderete appunto proprio Veneto Banca e la Popolare di Vicenza con la famosa operazione di sottoscrizione ad un euro. Una vicenda molto complicata, purtroppo le vittime di questa situazione se la ricordano però molto bene. Allora, avvocato Melpignano, come siamo riusciti ad arrivare a questo risultato e soprattutto che conseguenze può avere? Beh, intanto ci siamo arrivati perché c'è stata una cittadina che ha creduto nella giustizia, e questo non va mai dimenticato, è sempre la premessa di ogni battaglia. Beh, è evidente che la ex, vorrei chiarire un altro passaggio, è stato già detto, ma insomma va ribadito per onore e amore di verità, che Banca Intesa sconta le colpe di figli, cioè di Veneto Banca che controllava Banca Puglia, che poi è stata assorbita. Ecco, questo è corretto dirlo. Cosa è accaduto? Che all'epoca la ex Banca Puglia ha venduto in maniera un po' allegra questi prodotti, azioni Veneto Banca nel caso di specie. Mancava il contratto quadro, che è il punto di partenza di ogni rapporto che abbiamo con la banca. C'era certamente un problema di concentrazione del portafoglio, insomma era tutto investito in titoli Veneto Banca, che è quello che non si può fare, e c'era un problema di trasparenza, non erano state fornite tutte quante le informazioni. Ecco, diciamo che in questo caso c'era un po' il supermarket delle violazioni che una banca non dovrebbe mai commettere quando colloca un prodotto rischioso come un titolo liquido non quotato. Ricordiamo che questa risparmiatrice aveva acquistato fra il 2009 e il 2014, quindi in operazioni ripetute attraverso Banca Puglia, queste azioni di Veneto Banca. Quindi peraltro la come dire, decisione dell'arbitro è importante anche per il fatto che obbliga il risarcimento di azioni della banca, quindi non solamente l'obbligazione, diciamo, è oggetto generalmente di pronunce di questo tipo, avvocato Melpignano. Sì, sì, è proprio così, questo è un altro aspetto importante, l'altro è anche il riconoscimento della responsabilità di Banca Intesa, che ha appunto acquistato e incorporato Veneto Banca e quindi anche la controllata Banca Puglia, perché in queste vicende che riguardano in realtà due società delle vecchie Veneto Banca e Popolare di Vicenza, si chiamavano Banca Puglia e Banca Nuova, che era una banca siciliana, Banca Puglia era una banca che operava nel mio territorio in Puglia, erano due banche perfettamente sane, in bonis e funzionanti. Cosa succede? Che nei tanti giudizi promossi si costituisce Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa dicendo sono io che ti voglio pagare, ma noi diciamo no, in realtà i soldi è corretto che li paghi Banca Intesa perché questo prevede la normativa. In realtà se posso usare dei paroloni incomprensibili, ma che sono poi quelli che ci hanno consentito di arrivare ad un risultato di questo genere, noi abbiamo dato una lettura, riteniamo corretta, di un documento che si chiama atto ripetitivo del secondo atto ricognitivo del contratto di cessione, che è sostanzialmente una di quelle appendici che sono conseguite al decreto legge del 2017 che pose in liquidazione coatta le due banche e ai contratti vari di cessione di azienda. Ecco, parole difficili per una questione che facilissima non era. Diciamo che c'è un aspetto iniziale però di in qualche modo mala appostazione, mala proposta dal punto di vista della banca alla pensionata. Adesso c'è anche la possibilità di recuperare, ma la banca a questo punto, e intendiamo Banca Intesa perché poi è con lei che è rimasta con il cerino, il famoso cerino in mano, termine, esatto. Però è così, insomma, no, come diceva anche lei, sconta qualcosa che non ha fatto lei. Ecco, ma Banca Intesa a questo punto può opporsi, può ancora proseguire questa vicenda dal punto di vista del contenzioso? Beh, dunque, secondo il regolamento dell'arbitro Consob, la banca ha 30 giorni al netto delle ferie del periodo feriale, quindi all'incirca arriviamo a fine settembre, per ottemperare a questa decisione. Se non lo fa, va intanto incontro a quella che viene definita sanzione reputazionale, esatto. Cioè dovrà indicare sulla home page del proprio sito di non aver ottemperato ad una decisione dell'arbitro Consob, che poi è quello che abbiamo visto fare molto spesso nei mesi scorsi, per esempio per il caso famoso della Banca Popolare di Bari. E poi certamente potrebbe far valere, potrebbe non pagare, in questo caso dovrebbe darsi corso ad un giudizio ordinario. Bene, allora ci dica come andrà a finire, perché proprio l'ultima puntata non è ancora stata scritta di questa vicenda e sarà molto interessante appunto verificarne il percorso. Avvocato Melpignano, grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie, a presto. Buon lavoro a voi, grazie. Senti, prima di andare in pausa, perché adesso c'è un altro mio momento, volevo segnalarti che su WhatsApp, ovviamente la faccenda dei 500 euro della banconota sta suscitando grande interesse, e io e te siamo veramente due grandi pescioloni, perché non ci siamo ricordati di dire che effettivamente c'è la possibilità di recarsi ad una filiale della Banca d'Italia per cambiare, per chiedere il ritiro di questa banconota e magari per chiedere un cambio in tagli più piccoli. Ce lo stanno segnalando almeno 10 ascoltatori. Siamo due ignoranti veramente senza speranza. Anche noi dobbiamo ascoltare con molta attenzione l'alfabeto del risparmio, questa rubrica che lanciamo da oggi e per tutti i martedì di qui fino alla fine di ottobre. Cominciamo a prendere appunti, Deborah, magari dal Dillo a due di denari e poi le borse. Dillo a due di denari. Ho 75 anni e dico perché vorrei una legge a tutela del tempo, il bene più prezioso, anzi preziosissimo, che abbiamo dopo la salute. Chi ci ruba il tempo? Praticamente tutte le grandi aziende, gli enti, gli ospedali, le banche, eccetera, eccetera. Tutti gli operatori sono occupati, la preghiamo di attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. Non l'avete imparata a memoria? Già parlare con i call center rende nervosi se stessi e gli operatori. Se poi lo si fa da arrabbiati, le tensioni aumentano con svantaggi per tutti. L'unico ente perfetto è, ma no, l'Agenzia delle Entrate, che recita: è prevista un'attesa di circa n minuti e lei è al 48esimo posto. Si attendono un paio di minuti e si capisce quale possa essere una previsione di attesa. Perfetto, se ho tempo e voglia attendo, altrimenti abbandono la partita e riprovo in un altro momento. Non credo sia poi così costoso e temo che se non verrà imposto per legge, valutando adeguati parametri quali fatturato, dipendenti, territorialità, eccetera, non ne verremo fuori. Ma per favore, boh, vabbè, comunque, arrivederci. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Eh sì, Mauro, si avvicina a ottobre e arriva anche quest'anno il mese dell'educazione finanziaria, organizzato come sempre dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. È una edizione sulla quale puntiamo molto e ci sarà molta attenzione, un'attenzione speciale, perché abbiamo vissuto un anno molto complesso nel corso del quale la tenuta economico-finanziaria delle famiglie è stata messa a dura prova a causa della pandemia e le sue ripercussioni, non solo nel panorama sanitario ma anche nel mercato del lavoro, nel commercio, nel tessuto industriale fra tutti noi. Un'indagine Doxa, te lo ricorderai Mauro, commissionata proprio dal Comitato Nazionale, ha scoperto che molte famiglie italiane si sono trovate impreparate a gestire la fase emergenziale dei mesi passati, manifestando così tutta la loro fragilità finanziaria. Me la ricordo benissimo, perché ne abbiamo parlato qui a Due di Denari e anche in quell'occasione, secondo me, avevamo chiamato a commentare, a spiegarci, a illustrarci come si può reagire a questa fragilità finanziaria e più in generale a questa fragilità di preparazione, proprio la direttrice del Comitato Nazionale, cioè la professoressa Anna Maria Lusardi, che abbiamo ospite questa mattina, e con lei inauguriamo l'alfabeto del risparmio. Buongiorno, bentornata a Due di Denari innanzitutto, professoressa Lusardi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, noi cominciamo, essendo un alfabeto, dobbiamo fare una BC, lei comprende. Sì. E quindi, allora, sicuramente la C potrebbe essere quella del comitato, la B potrebbe essere quella delle buone pratiche che il sito, quello che conta.gov.it, riporta, presenta insieme alle iniziative, e la A, ci perdonerà professoressa, ma noi sa che siamo per la autorevole leggerezza, la A vuole essere proprio quella sua, cioè la A di Anna Maria. E allora ci racconta lei intanto le testimonianze, quello che è successo in questi mesi, e quindi così qual è stato il lavoro che si è sviluppato dalla parte del comitato e anche da parte sua in questi mesi così difficili. Sì, grazie. Sono stati sicuramente mesi molto difficili e lo abbiamo visto anche chiaramente dall'indagine DOCSA che avete appena citato. A marzo, all'inizio della pandemia, una delle cose che il Comitato ha fatto è un cambiamento al portale, al nostro portale, quello che conta.gov.it, che è, diciamo, uno degli strumenti che il Comitato ha ideato e fatto per offrire a tutti una fonte di informazione semplice ma autorevole, e abbiamo aggiunto una nuova sezione sul portale per quanto riguarda i consigli nelle situazioni di emergenza, 10 consigli che riguardavano ad esempio anche come avvalersi bene degli aiuti pubblici e privati, e che abbiamo continuato ad aggiornare. Un'altra cosa importante che abbiamo fatto subito è quello di commissionare appunto un'indagine DOCSA per riuscire a capire la situazione finanziaria delle famiglie italiane in questo momento molto particolare, e che ci ha poi aiutato anche a ideare e fare meglio i programmi di educazione finanziaria in questo momento molto particolare, e anche adesso in visione del nuovo mese, di ottobre. E abbiamo velocizzato delle linee guida per l'educazione finanziaria dei giovani e degli adulti che riprendono anche la situazione attuale, e a mio volta ho iniziato una rubrica, si chiama Dalla scrivania di Anna, per parlare di finanza personale a tutti in modo semplice e spero utile. Perché infatti questo è un po', io credo, Deborah, la difficoltà, cioè l'educazione finanziaria non è certo un tema che magari qualcuno può scegliere per diletto, però se le cose vengono raccontate in un modo semplice, accattivante, e come è stato appunto queste iniziative, allora qualche lacuna possiamo colmarla. Lacune che abbiamo visto sono state confermate dall'indagine DOCSA, cioè comunque continuiamo ad essere molto impreparati e quindi, professoressa Lusardi, molto vulnerabili, come il caso della pensionata che abbiamo raccontato prima di questo collegamento. Esattamente. L'indagine DOCSA lo mette molto bene in evidenza. Abbiamo proprio parlato di fragilità finanziaria. La fragilità finanziaria, diciamo, è l'espressione della nostra capacità di resistere, diciamo, agli urti senza romperci. E quello che noi abbiamo rilevato dalla indagine DOCSA sono varie situazioni. Da una parte questa fragilità finanziaria delle famiglie, che tra l'altro esisteva anche prima della crisi, ed è per questo che è un problema non temporaneo e soltanto dettato dalla crisi, ma un problema strutturale. E la seconda evidenza, che tra l'altro confermata da tante altre poi indagini internazionali, è sempre questa bassa conoscenza finanziaria degli italiani. Lo vediamo che neanche il 30% delle famiglie italiane sanno questi concetti di base, come il tasso di interesse semplice, il tasso di interesse composto, la relazione rischio-rendimento. Queste sono conoscenze di base però importanti, e i dati ci fanno vedere che ci aiutano anche ad essere più resilienti. Ed è per questo che occorre accrescere le conoscenze finanziarie, perché è uno strumento in più per difenderci contro la crisi. E quindi queste le possiamo un po', queste indicazioni, sintetizzare un po', professoressa Lusardi, continuando con il nostro gioco dell'alfabeto, come le A azioni da prendere o B, buone pratiche da assumere per modificare un po' il nostro comportamento e trovarci un po' meno fragili dal punto di vista finanziario nel caso in cui un'altra emergenza si palesasse. Esattamente così, noi abbiamo usato proprio queste conoscenze e queste il risultato anche dell'indagine DOCSA, uno per pensare a nuovi programmi di educazione finanziaria, a nuovi modi per farlo, ma sicuramente il messaggio più importante che arriva proprio da questa indagine DOCSA è che le buone pratiche sono importanti per dobbiamo accrescere la conoscenza finanziaria, dobbiamo aumentare la nostra resilienza finanziaria. E tra l'altro un altro aspetto che noi abbiamo visto è anche come un quarto delle famiglie italiane non pianifica per il medio e lungo periodo. Ecco, anche ci dobbiamo guardare non soltanto al breve ma anche al lungo periodo e prepararci per il futuro. Ed è un altro aspetto dell'indagine che ci dà dei suggerimenti importanti su quello che è importante fare e credo che appunto queste buone pratiche se attuate ci aiutano poi a vivere meglio. Tra l'altro sul tema della pianificazione non a caso questo mese dell'educazione finanziaria ottobre 2020 concentrerà una parte importante della sua attenzione proprio sulle questioni della previdenza. Però Mauro, dopo A di Anna Maria e azioni come da prendere, B come buone pratiche, è arrivato il momento della C. C come comitato, che è S come scheda. C'è la scheda. C come comitato. Istituito nel 2017, il comitato, che ha il compito di migliorare la nostra preparazione in materia economica, ha un mandato molto ampio. All'indirizzo quellochecconta.gov.it, il portale che fa da collettore delle iniziative e da punto di diffusione di materiali formativi e informativi, si legge infatti che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali. La professoressa Anna Maria Lusardi, docente alla George Washington University Business School, è il direttore del Comitato, al cui vertice siedono 11 componenti, tutti esperti del settore e provenienti da Banca d'Italia, Consob, Albo dei Consulenti Finanziari, IVAS, Covip, insieme a rappresentanti dei ministeri e del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. Dal 2018 il Comitato monitora e coordina le iniziative di educazione finanziaria che si svolgono dal 1 al 31 ottobre, divenuto ormai stabilmente il mese dell'educazione finanziaria. Quest'anno una particolare attenzione sarà dedicata alle scelte finanziarie ai tempi del Covid e all'educazione previdenziale. La settimana dal 26 al 31 sarà dedicata proprio alle iniziative in materia pensionistica. Gli eventi del mese dell'educazione finanziaria sono gratuiti e senza scopo di lucro e possono essere organizzati da enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni e qualsiasi organizzazione possono proporre eventi di educazione finanziaria coordinandosi con il Comitato. Per segnalare le iniziative e per conoscere quali eventi si svolgono sul territorio, l'indirizzo è sempre quellochecconta.gov.it. Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine. Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire. Il nostro alfabeto del risparmio con Anna Maria Lusardi, che dirige il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria e che guarda al prossimo mese, al mese di ottobre, quando ci saranno appunto tutte le iniziative di cui avete sentito nella scheda, iniziative gratuite, senza scopo di lucro, che devono servire a migliorare la nostra consapevolezza finanziaria. Professoressa Lusardi, però un mese, visto tutto quello che abbiamo detto prima e che ci ha raccontato a proposito dell'indagine DOCS, eccetera, e forse un mese è anche poco per prendere un pochino di conoscenza in più. Sì, certo, infatti noi diciamo sempre che il mese dura tutto l'anno. E noi speriamo che le iniziative inizino ad ottobre, ma per un percorso di educazione finanziaria, non per una sola iniziativa. Detto questo, credo che sia importante avere questo 30 giorni proprio di attività dedicate all'educazione finanziaria in tutte le sue forme. Noi vogliamo trasformare il mese proprio in un laboratorio di idee, chiedendo a tutti di aiutarci a promuovere l'educazione finanziaria, e volevo informarvi che sono già stati messi online i primi 100 eventi che sono stati proposti e che ogni settimana continueremo ad aggiornare il portale, mettendo tutti gli eventi che sono stati proposti, e come già i primi 100 eventi ci indicano, ci sono eventi in tutte le regioni d'Italia, adesso molti sono fatti online e quindi è possibile accedere a tutti, e coprono tanti temi, sicuramente quello delle scelte delle situazioni di emergenza, e siamo molto contenti poi di dedicare un'intera settimana anche all'educazione previdenziale. E vi ricordo che ci sarà anche un giorno dedicato all'educazione assicurativa. Allora, professoressa Lusardi, un ascoltatore ci scrive: ma in un paese come l'Italia, con un patrimonio di risparmio così importante, così elevato, perché le banche non educano i potenziali investitori? Allora, il punto è che per la verità in questi anni quasi tutti gli istituti di credito italiani, con delle iniziative più o meno grandi, entrando anche nel mondo della scuola, di iniziative ne hanno proposte tantissime. Abbiamo partecipato anche io e Mauro appunto ad alcune di queste, lo dico senza alcun problema, perché spesso ci hanno chiesto anche un aiuto per cercare di capire e di intercettare il linguaggio più adeguato per arrivare alla platea del risparmiatore finale. Il punto è proprio questo: in genere, se la fa la banca l'educazione finanziaria, qualcuno la guarda con un po' di sospetto, perché dicono è un modo per intercettare nuova clientela. Ci sta anche che magari qualcuno la pensi così. Il punto è proprio questo, professoressa Lusardi: da quale interlocutore arriva l'iniziativa? E tutto questo perché io voglio arrivare a chiederle qualche notizia in più rispetto a questa iniziativa che va avanti da qualche anno in un piccolo comune d'Italia, in provincia di Chieti, che è quello di Paglieta, che a voi è piaciuta tantissimo, al punto che sperate che possa diventare un esempio da emulare in tutta Italia. Sì, ci è piaciuta molto questa iniziativa fatta dal comune di Paglieta, dove il sindaco ha organizzato delle lezioni di educazione finanziaria nella sala comunale, utilizzando il materiale del portale Quello che Conta. Ci è piaciuto perché è un esempio di come probabilmente risolvere questi problemi di fiducia e anche di conoscenza dei bisogni delle persone. In particolare i sindaci, anche poi di un piccolo paese, possono capire ancora meglio questa situazione. Hanno utilizzato quello che noi avevamo creato e messo a disposizione a tutti, che è il portale Quello che Conta, ed è un'iniziativa a nostro avviso che potrebbe essere attuabile in tanti altri comuni, quindi che potrebbe essere scalabile, e se noi riuscissimo a farlo, se altri potessero seguire l'esempio del comune di Paglieta, data la grande composizione di tanti piccoli comuni in Italia, ecco che potremmo veramente raggiungere tante persone proprio nell'aspetto, diciamo, della loro dove sono, e questa potrebbe essere un'iniziativa con grandi potenzialità. Facciamo un appello ai sindaci, quindi, professoressa Lusardi, lo facciamo anche con lei e con Mauro, molto volentieri. Magari c'è qualcuno all'ascolto che vuole chiederci qualche dettaglio in più rispetto alla concretizzazione appunto di questa iniziativa sul loro territorio. Quindi cosa vuole dire, sindaci d'Italia? Voglio dire E questo è un esempio da seguire, che è un'iniziativa che ci è sembrata molto utile. Il sindaco che abbiamo conosciuto e intervistato, e ci ha proprio anche fatto capire che questo serviva sia al comune e serviva anche a loro per fare meglio il loro lavoro, e che chi fa questa iniziativa corre anche un rischio, ed il rischio che poi il direttore vada da loro a trovarli. Allora, scusatemi, io mi stavo distraendo, Deborah. Perché? Perché sono andato sul sito quellochecontra.gov.it e sono andato a leggermi, devo dire in qualche caso a rileggermi, le lettere della scrivania di Anna. Ah. Sì, perché appunto dicevamo prima, è un po' il tono spesso che è decisivo per far passare i concetti, specialmente certi concetti che magari non sono proprio di quelli più digeribili. Perdoni, professoressa, naturalmente non ce l'ho con la materia di cui lei si occupa, però effettivamente queste lettere, insomma, sono che trovate appunto sul sito quellochecontra.gov.it dalla scrivania di Anna, sono una forma colloquiale di educazione finanziaria, mi pare. Sì, certo, io ho usato poi questo tono della lettera perché credo, come dicevate anche voi, che le decisioni finanziarie siano un fatto personale, quasi intimo, e le ho strutturate per argomenti, e quindi partendo anche da quello che abbiamo visto nella indagine DOCS, quindi dalle preoccupazioni che esistono nelle persone e quali sono anche le decisioni importanti da prendere. Una cosa che volevo mettere in evidenza, ad esempio anche dei dati DOCS, è il grado di ansietà finanziaria che tante famiglie provano in questo momento per prendere le decisioni. E queste lettere sono un tentativo quasi di tradurre, ad esempio, questo corso di finanza personale che io sto tenendo all'università qua negli Stati Uniti per i miei studenti, e traducendolo in queste lettere che servono anche a spiegare perché i concetti, ad esempio, di finanza personale ci aiutano, perché sono importanti prendere certe decisioni, come ad esempio la pianificazione per il futuro, o ad esempio perché è importante aumentare la resilienza finanziaria. Un'ultima domanda, professoressa Lusardi, abbiamo meno di un minuto di tempo prima della chiusura della nostra prima puntata dell'Alfabeto del Risparmio. Esistono dei gruppi sociali che hanno più bisogno di educazione finanziaria rispetto ad altri? Sicuramente, questo ce lo dicono ancora una volta i dati DOCS. Ci sono due gruppi che vorrei citare che sono molto importanti, sono particolarmente cari per il Comitato, che sono i giovani e le donne. Sono importanti perché non sono gruppi piccoli e sono i gruppi portanti, direi, della società, ed è per questo che tante iniziative saranno indirizzate proprio a loro. E noi ci auguriamo in particolare che adesso, alla partenza delle scuole, l'educazione finanziaria si possa inserire nei programmi scolastici, ed in particolare quelli di educazione civica, che è la nuova materia che sarà insegnata in questo nuovo anno nelle scuole. Bene. Grazie ad Anna Maria Lusardi, che dirige il Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria in Italia. Noi torniamo con l'Alfabeto del Risparmio il martedì prossimi, però naturalmente potete ritrovare il tutto anche sul nostro sito www.radio24.it nella sezione 2 di Denari. Noi invece ci ritroviamo qua domani in carne ed ossa in versione podcast, ci finiamo nel pomeriggio. A tutti una buona giornata, a presto. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it